Dubi Dubi Du 2015, undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto del Dubi Dubi Du 2015, undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Per chi ci ascolta la prima volta, forse qualcuno penserà, ma c'è un errore, ha detto 2015, siamo nel 2016, no, perché il festival inizia sempre nell'ottobre e si protrae anche per un mese nell'anno successivo, e quindi anche quest'anno per tutto gennaio andrà in onda il Festival delle Voci Jazz Italiane, che stasera per la sedicesima e penultima serata inizia con la bravissima Cinzia Spata, una grande professionista che per la Coine 12 Lune ha realizzato un bel CD intitolato Into the Moment e l'ha fatto insieme a Bruce Bart al pianoforte, Dave Clark al contrabbasso, Joron Israel alla batteria, Ken Servenka alla tromba e flicorno e George Garzone al sax tenore. Gli arrangiamenti di tutti i pezzi che sono raccolti in questo progetto discografico sono a cura di Cinzia Spata. Stasera noi ci ascolteremo The Glide, una composizione originale di Ralph Towner con i testi di Cinzia Spata. Buon ascolto con Cinzia Spata. Never. Questa era la voce di Cinzia Spata, che dal CD Into the Moment ci ha fatto ascoltare l'interpretazione di The Glide, scritta da Ralph Towner con i testi di Cinzia Spata. In questo CD sono presenti anche Bruce Barth al pianoforte, David Clark al contrabbasso, Jorron Eisler alla batteria, Ken Cervenka alla tromba e George Gargione al sax tenore. Un'interpretazione sicura che mette in evidenza la grande professionalità di Cinzia Spata, nello stesso tempo le doti canore ma anche quelle interpretative. Una grande professionista dotata di estrema sensibilità. Il CD, lo ricordo ancora una volta, intitolato Into the Moment, pubblicato dalla Koinè. Proseguiamo con Trio Marrano, un trio formato da Diego Carbon, Angela Castellani e Irene Pertile alla voce, e supportato dai musicisti Franz Bazzani al pianoforte, Rudy Speri alla chitarra, Leonardo Rizzo alla batteria ed Enrico Terragnoli al basso acustico. Il CD è intitolato Altri Tempi, ci riporta nelle atmosfere dello swing italiano, e stasera noi ci potremo ascoltare Ultimissime. Buon ascolto quindi con Trio Marrano. Questo era il Trio Marrano, che ci ha fatto ricordare quanto fosse gioiosa ed allegra e leggera l'atmosfera dello swing italiano, e ce l'ha fatto rivivere con quella bella interpretazione che ci ha offerto di Ultimissime, tratto dal CD Altri Tempi. Ricordo che il Trio Marrano è formato da Diego Carbone alla voce, Angela Castellani voce tip-tap e Irene fertile, anche lei voce, e Tip Tap, insieme a loro il quartetto Bellimbusti con Franz Bazzani al pianoforte e fischio, Rudy Speri alla chitarra, Leonardo Rizzo alla batteria, Enrico Terragnoli basso acustico e banjo. Una bella interpretazione, fresca, gioiosa, allegra, che conferma la professionalità e nello stesso tempo il grande feeling che c'è all'interno di questo trio vocale. Lasciamo Trio Marrano e il loro CD Altri Tempi ed andiamoci ad ascoltare Ebe Guerra, che ritorna al Festival delle Voci Jazz Italiane con il CD Between Two Blondies, pubblicato dalla 4 Records, un tributo a Marilyn Monroe e Marlene Dietrich. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Falling in Love Again. Insieme a Ebe Guerra alla voce abbiamo Maurizio Patarino alle chitarre, che cura anche gli arrangiamenti, Bruno Montrone al pianoforte, Gianluca Fraccalvieri al contrabbasso, Alessandro Campobasso alla batteria. Special guest in alcuni pezzi abbiamo in questo CD anche Renato Daiello, che però non è presente in questo pezzo. Buon ascolto quindi con Ebe Guerra. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can I repeat? Love's always been my game, play the dough I may. I was meant that way, can I be? My closer to me like more around the flame, and if they whimper I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can I voce di Ebe Guerra, che ci ha fatto ascoltare l'interpretazione di Falling in Love Again insieme a Maurizio Patarino alla chitarra e gli arrangiamenti, Bruno Montrone al pianoforte, Gianluca Fraccalvieri al basso e alla batteria avevamo Alessandro Campobasso. Il CD è intitolato Between Two Blondies, un tributo a Marilyn Monroe e a Marlene Dietrich, e il pezzo che ci siamo ascoltati, appunto Falling in Love Again, è stato realizzato con grande morbidezza, con grande rispetto per la tradizione, ma nello stesso tempo anche con un'interpretazione personale originale molto interessante, sicuramente sentita e partecipata. Ricordo che il CD Between Two Blondies è pubblicato dalla 4 Records. E andiamo avanti, dopo Ebe Guerra adesso ci possiamo ascoltare lo One Trio, featuring Mike Rossi, One Trio, che è formato da Antonia De Angelis alla voce, per il quale questo gruppo è stato selezionato per il festival, Walter Pignotti alla chitarra, Emiliano Macrini al contrabbasso e appunto Mike Rossi al sax tenore come special guest. Il CD con il quale il One Trio è stato selezionato per il Festival delle Voci Jazz Italiane è intitolato Summer Ballads e noi da questo CD stasera ci potremo ascoltare l'interpretazione di Skylark. Buon ascolto quindi con il One Trio per la voce di Antonia De Angelis. As a wheel, all the wheels crazy. a gypsy, serenading the moon. Oh, skyline, I don't know if you can find this place, but my heart is thrilling. Questo era il Warm Trio formato da Antonia De Angelis alla voce, Walter Pignotti alla chitarra, Emiliano Macrini al contrabbasso, e in questo CD intitolato Summer Ballads abbiamo anche uno special guest che è Mike Rossi al sax tenore. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera era Skylark, una bella interpretazione con poesia, morbidezza e sensibilità, oltre che sicuramente con una valida preparazione professionale. Una buona interpretazione dello Warm Trio che, ricordo, si presenta al Festival delle Voci Jazz Italiane attraverso il CD di Summer Ballads con la voce di Antonia De Angelis. E adesso andiamo avanti con Fabio Lepore, un ritorno al Festival delle Voci Jazz Italiane, quello di Fabio Lepore insieme al suo Italian Jazz Quartet e con il CD Pausa Caffè. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è conosciutissimo, portato al successo da Mina, molto difficile, intitolato Brava, Bravo, scritto da Bruno Canfora. Buon ascolto quindi con Fabio Lepore e l'Italian Jazz Quartet. Sono bravo, sono tanto bravo, faccio bene tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Forse faccio qualche nota, non è proprio giusto e giusto, ma però io sono certo che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, sta. Non posso dire queste note così basse che si fa. E poi vado su, vado su, vado su. Bravo, bravo, come sono bravo, bravo. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo e vi ricordate quelle note così basse che si fa. E poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come due note che volano nel cielo. Tu, tu, tu, tu. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato, che neppure una balena può resistere sott'acqua, stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo sol. Bravo, bravo, sono tanto bravo, bravo, sono tanto bravo, sono bravo, sono tanto bravo, faccio così tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un po' come tranquillo se potessi questa sera fammi dire che son bravo, sì. Ma che dirlo siate voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi. Voi che le sentite cosa fa, non mi corre che fa boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Paolo Lepore, questo era il cantante che ci siamo appena ascoltati insieme al suo Italian Jazz Quartet. Italian Jazz Quartet che è Dino Plasmati alla chitarra, Dario Di Lecce al contrabbasso e Marcello Nisi alla batteria. In un paio di pezzi di questo bel CD intitolato Pausa Caffè abbiamo anche il grande Gaetano Partipilo al sax alto, ma non era presente in questo pezzo. Fabio Lepore ci ha offerto questa bella interpretazione di Bravo, Brava, questo pezzo che, come dicevo prima, è stato portato al successo da Mina, molto difficile, con una bella interpretazione fresca, pimpante, che è stata supportata molto bene dal suo gruppo, appunto dall'Italian Jazz Quartet. Ricordo che il CD è intitolato Pausa Caffè ed è stato pubblicato dalla Preludio. Fabio Lepore. E dopo Fabio Lepore continuiamo con un gradito ritorno, quello di Annalisa Martinisi, che è stata selezionata per il Festival delle Voci Jazz Italiane con il CD Amen Voyage Passion. Il CD è molto interessante e da questo progetto discografico noi stasera ci ascolteremo Chi tene Omare, Se lui chi a la mer. Buon ascolto quindi con Annalisa Martinisi. Questa era Annalisa Martinisi che ci ha fatto ascoltare la sua interpretazione di Chi tene o mare, con la versione francese C'est lui qui la mer, un pezzo tratto dal CD En Voyage Passion. Il CD è ricco di partecipazioni strumentali molto importanti. In questo caso al flicorno avevamo Gianfranco Campagnoli, alla batteria Alberto Danna, alle percussioni Tony Cerco, al contrabbasso Dario De Ida, alla chitarra classica e acustica Claudio Romano, alla chitarra elettrica Pietro Condorelli, alla fisarmonica Sasà Piede Palumbo, al pianoforte e gli arrangiamenti Joe Amoruso, quindi tutti musicisti molto bravi e conosciuti. L'interpretazione di Annalisa Martinisi è molto sentita, mette in evidenza le sue grandi capacità tecniche ma anche quelle espressive ed interpretative. È veramente una bella la prestazione quella manifestata in questo progetto discografico, appunto, che ricordo intitolato Amen Voyage. Lasciamo Annalisa Martinisi e proseguiamo con Eli Bruna. Eli Bruna che ha realizzato un bel CD intitolato Sinestesia ed è stato pubblicato dalla Irma Records, un bel progetto discografico con molte partecipazioni musicali interessanti. Stasera noi da questo bel disco ci potremo ascoltare l'interpretazione di Titanium. Buon ascolto quindi con Eli Bruna. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium, you shoot me. Me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your reign. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium, you shoot me. Bene, ci siamo ascoltati Eli Bruna, questa brava interprete che ci ha proposto Titanium. Insieme a lei avevamo al pianoforte Fabrizio Foggia, alla chitarra Massimo Satta, al contrabbasso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Alessandro Pizzoni, alle percussioni Simone Federicuccio Talone, al violino e alla viola Marcello Sirignano, al violoncello Giuseppe Tortora. Gli arrangiamenti sono a cura di Nerio Papic Poggi e ricordo che questo questo pezzo Titanium è tratto dal CD Sinestesia pubblicato dalla Irma Records. Una bella interpretazione quella di Eli Bruna, che è una cantante soul ma non solo, un po' trasversale, comunque spazia in questi generi intorno al jazz e sempre con grande professionalità, con grande capacità, con grande partecipazione. Sicuramente le sue doti interpretative le permettono di spaziare in vari generi con grande abilità e sempre con efficacia. Lasciamo Eli Bruna e ci andiamo ad ascoltare Silvia Infascelli, che torna al Festival delle Voci Jazz Italiane con il CD Primavera, insieme a Frank Harrison, Yuri Golubev e Asaf Sirkis, tre straordinari musicisti. Frank Harrison è un grande pianista e tastierista, Yuri Golubev conosciutissimo qui in Italia come contrabbassista, e Asaf Sirkis, a sua volta leader di tanti progetti discografici che ho avuto il piacere di promuovere in Anima Jazz, alla batteria. Quindi un ottimo trio che accompagna Silvia Infascelli in questa avventura. Noi stasera, da questo bel CD intitolato Primavera, ci potremo ascoltare il pezzo che apre l'album e che è intitolato Come pioggia, ed è una composizione originale della stessa Silvia Infascelli. Ricordo che questo CD Primavera è stato pubblicato dalla Caligola Records. Buon ascolto con Silvia Infascelli. Bene, questa era la bravissima Silvia Infascelli, che insieme al pianista Frank Harrison, al contrabbassista Yuri Golubev e al batterista Asaf Sirkis ci ha fatto ascoltare Come pioggia, una sua composizione originale che tra l'altro apre l'album intitolato Primavera, pubblicato dalla Caligola Records. Silvia Infascelli è una delle più grandi interpreti, una delle più grandi autrici del panorama jazzistico italiano, una professionista che io seguo da molti anni e che con piacere ho selezionato anche quest'anno per il Festival delle Voci Jazz Italiane. Veramente molto brava, con delle felici intuizioni compositive e delle bellissime interpretazioni vocali di grande professionalità e di grande sensibilità, sempre elegante e raffinata. Gli arrangiamenti di questo pezzo, come tutti quelli contenuti nel CD, sono a cura di Yuri Golubev. Bene, il prossimo artista è Antonello Frongia, che si presenta per la prima volta al Festival delle Voci Jazz Italiane con il CD Awareness. Il pezzo che ci presenterà stasera è intitolato Quello che vorrei. Buon ascolto quindi con Antonello Frongia. Che vorrei è sapere che quando tornerai niente è cambiato per te. Quello che vorrei sono mille lucciole che illuminino la notte che ho creato per te. Penso che questo cielo immenso stasera sia soltanto uno sfondo per noi. Resta così se vuoi per sempre, per me tu sei importante, stasera lo vedrai. Quello che vorrei è lasciarmi andare, dirti tutto quello che ho tenuto per me, quello che farei a farti del bene per dimenticare questa vita cos'è. Penso che questo amore ha un senso se nasce dal bisogno che io sento di te. Resta così se puoi per sempre, il mondo non è niente se non sei accanto a me. Viaggio ha un senso se tutto il mio percorso lo faccio con te. Cerca di non dimenticare che tutto il nostro amore è forte più di noi. Quello che darei per averti qui è una vita insieme, ma sì. Bene, questo era Antonello Frongia che ci ha fatto ascoltare Quello che vorrei, una composizione di Michele Fischietti. Michele Fischietti che poi accompagna Antonello Frongia in questo pezzo alle tastiere, alla programmazione. E Antonello Frongia non è propriamente un cantante jazz, ma ogni tanto profuma le sue interpretazioni di jazz e quindi quest'anno abbiamo deciso di selezionarlo per il festival. È sicuramente un cantante di grande sensibilità, di poesia, con una partecipazione interiore in ogni pezzo che arriva all'ascoltatore. Ricordo che il CD è intitolato Awareness e Antonello Frongia ci ha fatto ascoltare Quello che vorrei. Bene, lasciamo Antonello Frongia e andiamoci ad ascoltare una cantante che ritorna al festival, Elisabetta Manganelli, che ritorna con In Ellingtonian Mood. In Ellingtonian Mood, un bel CD vissuto insieme a Michele Paoletti alla chitarra e Carmelo Leotta al contrabbasso, e stasera Elisabetta Manganelli da questo CD ci farà ascoltare proprio il pezzo che apre l'album, I Ain't Got Nothing But The Blues. Buon ascolto quindi con Elisabetta Manganelli. Ain't got the change of an acre, ain't got no bounce in my shoes, ain't got no fancy to take on. I ain't got nothing but a blue, ain't got no coffee that's perking, ain't got no winning to lose, ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up, I just can't make it calm down. Believe me, papi, I can't get happy since my heaven-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers, ain't got no feelings to bruise, ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Trumpets flare up, I keep my hair up, I just can't make it come down. Believe me, papi, I can get happy since my heaven-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers, ain't got no feeling to bruise, ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. I ain't got nothing but the blues. I ain't got nothing but the blues. I ain't got nothing but the blues. Questa era la voce di Elisabetta Manganelli che dal CD In Ellingtonian Mood ci ha fatto ascoltare I Ain't Got Nothing But The Blues, un bel pezzo realizzato insieme a Michele Paoletti alla chitarra e a Carmelo Leotta al contrabbasso. Belle interpretazioni in ogni pezzo di questo bel CD che ripercorre un po' la storia dei grandi standard americani del secolo scorso, e in ogni pezzo si avverte una grande partecipazione emotiva di Elisabetta Manganelli che rivive queste interpretazioni veramente intanto con grande professionalità, con grande gusto, con grande gioiosità, e sicuramente fa rivivere anche i fasti di questi pezzi che ci hanno accompagnato e ci hanno affascinato. Proseguiamo dopo Elisabetta Manganelli con un'altra cantante che ritorna al Festival delle Voci Jazz Italiane, Carmen Spatafora, che si ripresenta con il CD Fotografia pubblicato dalla Jazzy Records, un CD che vede Carmen Spatafora insieme a musicisti conosciutissimi a livello nazionale, quali Dino Rubino alla tromba e flicorno, Giuseppe Asero al sax alto, Giovanni Mazzarino al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Stasera noi ci potremo ascoltare l'interpretazione di Your Picture in My Heart, scritta da Mazzarino e Lombardi, e gli arrangiamenti sono di Giovanni Mazzarino. Buon ascolto quindi con Carmen Spatafora. I don't need no photograph to keep your smiling face with me. All I need is you to know the time just won't erase from my mind your sweet eye of blue. Because of you I know love can be true, and that's why I always hold your picture in my heart. Keep your smiling face with me. All I need is you to know the time just won't erase from my mind your sweet eyes of blue. Because of you I know love can be true, and that's why I always hold your picture in my heart. Thank you. Questa era Carmen Spatafora, che dal CD Fotografia, pubblicato dalla Jetsy Records, ci ha fatto ascoltare l'interpretazione di Your Picture in My Heart, scritta da Mazzarino e Lombardi. Insieme a Carmen Spatafora in questo CD abbiamo Dino Rubino alla tromba e flicorno, Giuseppe Asero al sax alto, Giovanni Mazzarino al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Gli arrangiamenti sono di Giovanni Mazzarino e Carmen Spatafora ci ha offerto una bella interpretazione di questo pezzo con questo suo timbro molto particolare, caldo, capace di offrire delle interpretazioni toccanti e partecipate emotivamente. Sicuramente un bel CD con performance interessanti anche grazie alla presenza di questi straordinari musicisti che offrono sempre una grande sicurezza in ogni pezzo per la loro straordinaria professionalità. E siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. Ci ascolteremo Clara Rivieri, che in ottetto insieme a Yuri Daldan dal CD In the Still of the Night ci farà ascoltare la sua interpretazione di Volver. Buon ascolto quindi con Clara Rivieri e l'ottetto insieme a Yuri Daldan. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo sonda horas de dolor. Y aunque no hice regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia o me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon cien. La mirada errante, las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero al viajero que bulle, tarde o temprano detiene su andar. Y aún que olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida a una esperanza humilde. Toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bene, questo era lo Yuri Daldan e Clara Rivieri Octet, chiaramente per la voce di Clara Rivieri, insieme a lei Yuri Daldan appunto al pianoforte, Paolo Mazzoleni al contrabbasso e poi abbiamo Alessandro Manzutti alla batteria, Olga Zakharova al primo violino, Marco Toso al secondo violino, Margherita Cossio alla viola e Andrea Musto al violoncello. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Volver, tratto dal dal CD intitolato In the Still of the Night, veramente un bel CD pubblicato da Arte Suono, nel quale appunto Clara Rivieri mette in evidenza la sua professionalità, la sua capacità interpretativa, il suo bel timbro, sicuramente delle belle performance anche di tutta la, l'ensemble musicale che esprime grande professionalità. Con questo si conclude anche la 16ª serata del Doobidoobidoo 2015. L'appuntamento è come sempre a lunedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e dal Doobidoobidoo 2015, 11º festival radiofonico delle voci jazz italiane.